E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddie e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale con l'Europa. L'Europa che ci piace raccontare, che ci piace conoscere, che ci piace respirare. L'attualità, la politica, l'economia europea che viene narrata e raccontata ogni giorno da Radio 24. Il sabato noi cerchiamo di portare anche altri punti di vista su quella che è la cultura europea. Un programma in collaborazione con il network Euronet, euronet.eu, il sito del portale, tante notizie, tante curiosità, tanti punti di vista diversi, in tante lingue diverse, anche questa è l'Europa. Ci trovate anche su Facebook, facebook.com/l'altra Europa, con le pagine che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, oppure anche su Twitter al nome Federico Taddia, quindi potete trovare tutti i link e tutte le notizie che segnaliamo in puntata. Un viaggio ogni settimana. Questa settimana partiamo però giocando in casa, partiamo dall'Italia e partiamo ribaltando un po' la situazione, la crisi politica italiana verso una soluzione, comunque un cambiamento. È stata una settimana assolutamente intensa, con tutta l'Europa che ci guarda, che ci sta seguendo, incuriosita, attenta, preoccupata, ma anche con un velo di ottimismo che traspare, e soprattutto i rapporti, per esempio, con la Germania, con la grande locomotiva che tanto ci ha spronato, ed è lì che la Merkel che ci aspetta. Insomma, è bello anche raccontarsi alla Germania, questa fa parte dell'Europa, e quindi abbiamo cercato di capire come la Germania ha letto queste giornate italiane. Lo facciamo in una chiave molto particolare, che è quella di un giornalista progressista del quotidiano tedesco Taz, che ha fatto uno scambio promosso dal Goethe-Institut, uno scambio di 2 settimane. Era qui in Italia, a Roma, in particolare a Radio Vaticana, quindi ha vissuto da dentro Radio Vaticana questo cambio comunque epocale della politica italiana, e l'ho anche raccontato ai lettori tedeschi. È un amico dell'Altra Europa, diamo il benvenuto qua con noi ad Ambros Weibel. Ciao Ambros. Ciao Federico. Ciao. Come va? Io molto bene, tu? Ciao a tutti. Ti senti? Ti sento benissimo. Sei in viaggio oggi? Credo stai tornando a casa, hai finito il tuo stage. Sì, sono in viaggio per l'aeroporto Fiumicino, uh-huh. Infatti sto tornando a casa, a Berlino. 2 settimane di Radio Vaticana, ho trovato qualche articolo anche che parlava di questa esperienza. Uno mi ha fatto molto sorridere, anche il titolo, perché diceva Weibel il rosso alla Radio Vaticana, no? Questo scambio quasi sembrava quasi una provocazione, invece credo che sia stato proprio una bella esperienza personale. No, mi sono trovato benissimo, guarda, con dei colleghi gentilissimi con me, diciamo, sono sempre giornalisti, no? È stata un'esperienza proprio per me eccezionale, sono contentissimo e spero che adesso sono in partenza con la collega di Radio Vaticana, Francesca Sabatinelli, che lavorerà per 3 settimane nel mio giornale, no? A Berlino, diciamo, nel giornale rosso. Anche questo sarà sicuramente molto divertente e molto bello. Un progetto che prende il nome Va bene la Germania in italiano, che propone questi scambi tra giornalisti. Ambros, però, in tutto questo sei stato anche fortunato, non potevi trovare 2 settimane migliori, infatti, per essere in Italia. Sì, sì, no, per me è stato bellissimo, perché io ho studiato nel 93-94 a Venezia, proprio quando era la scesa in campo del Cavaliere, così sì. Per me si è quasi chiuso un arco, non so se si può fare questo gioco di parole, si è chiuso un arco, è stato un periodo interessantissimo, e l'ho seguito ovviamente molto attentamente. Ecco, il tuo quotidiano, tra l'altro, insomma, è stato sempre uno dei più critici nei confronti del governo Berlusconi, quindi essere qui in prima linea per raccontare quella che è stata la caduta e la ripartenza di un nuovo governo tecnico, credo che sia stato anche questo un momento professionale importante per te. Cosa hai raccontato ai tedeschi di queste giornate italiane, di queste giornate romane? Sì, devo dire che, diciamo, sono abbastanza scettico nei confronti del governo Monti, diciamo, vedo che questo governo ridarà a molti italiani, soprattutto agli italiani all'estero, anche i miei amici a Berlino, ridà un qualcosa di dignità, no? Mm-hmm. Perché molti italiani all'estero non ne potevano più di sentirsi dire ogni giorno solo bunga bunga, conflitto di interesse, diciamo, affari mafiosi. Proprio i miei amici italiani a Berlino, c'è un grandissimo rilievo che finalmente hanno un governo, diciamo presentabile. Poi di questo che questo governo sarà capace a fare, diciamo, dobbiamo beh, adesso lasceremo tempo, aspettare, no? Esatto, ma hai raccolto anche impressioni, nel senso, hai avuto contatti oltre che i tuoi colleghi di Radio Vaticana anche con i cittadini, sei andato in giro per Roma, hai parlato con le persone? Sì, infatti, io ho fatto dei servizi nella periferia romana, parlando più che altro con i parroci, no? Perché io volevo fare un servizio, non volevo fare questo percorso normale turistico, ma volevo capire cosa sta succedendo nella periferia romana, disagio sociale, violenza. Devo dire che in queste, diciamo, borgate ho trovato una enorme vivacità, no? Ci sono tanti problemi con il traffico, con il collegamento, anche con povertà, ma ho avuto degli incontri con delle persone, sia italiani sia stranieri, o diciamo i nuovi italiani, che è stata un'esperienza bellissima, e ho capito molto anche della forza dell'Italia, no? Dell'energia, della vivacità, e credo proprio che adesso per l'Italia può cominciare una nuova epoca di speranza e di... è proprio un nuovo inizio, diciamo. Sono molto contento che ho potuto vivere in diretta quasi questo nuovo inizio del paese. Hai lasciato il curriculum a Radio Vaticana, nel senso, ti sei trovato bene, ti piacerebbe lavorare lì? Diciamo, io sono sempre, lavoro per un giornale che forse in Italia, diciamo, sarebbe vicino al fatto quotidiano. Sì. Io faccio mi sento una persona che fa un giornalismo di indagine. Ovviamente Radio Vaticana ha un altro compito, no? Radio certo. Vaticana è la voce del Vaticano, cosa che non vuol dire che lì non si fa un lavoro serissimo e nel senso giornalistico correttissimo, ma non so se io potrei proprio lavorare da Radio Vaticana, visto anche che, diciamo, ovviamente ho anche parlato con i colleghi della sezione tedesca lì, no? Certo. Che anche sono stati gentilissimi con me, ma comunque per lavorare lì devi essere cattolico. Certo. E io non ho niente contro la Chiesa, ma non sono credente, così per me ci sarebbero qualche problema, qualche difficoltà, diciamolo così. Diciamo, qualche conflitto di disinteresse, diciamo così. Allora, Ambros, pubblichiamo sulle nostre pagine in Facebook il sito per chi volesse leggere il tuo diario, blog.goethe.de, va bene, poi è lunghissimo, ma abbiamo già pubblicato il link sulle nostre pagine per seguire tutto il tuo racconto. Noi ci ritroveremo sicuramente nelle prossime puntate dell'Altra Europa, perché lo sai, sei una delle nostre voci preferite dalla Germania. Quindi... Ma grazie, ti ringrazio agli ascoltatori e buon weekend. Buon ritorno. A risentirci. Ciao Ambros, ciao. Europost-it. Euro Students Award. Siete cresciuti con l'euro? Questo premio è per voi. Il Generation Euro Students Award offre agli studenti delle scuole secondarie superiori che fanno parte della prima generazione euro la possibilità di approfondire le proprie conoscenze sull'attività di una banca centrale e sul funzionamento della politica monetaria nell'area della moneta unica, nonché le sue interazioni con l'intera economia. Se passerete le varie fasi dei test, dovrete superare la fase nazionale e insieme agli studenti delle squadre inviate da ciascuno dei paesi partecipanti, riceverete un premio proprio nella sede della BCE, la Banca Centrale Europea, a Francoforte. Per iscriversi, generationeuro.eu. Continua il nostro viaggio e andiamo in Spagna. Vediamo un po' se ricordate queste parole. È il momento di annunciare un calendario per le prossime elezioni generali. Per la sua celebrazione y en consecuencia para su convocatoria. Las elecciones generales se celebrarán el próximo día 20 de noviembre. Era Zapatero che annunciava di lasciare il governo, aveva fissato le elezioni il 20 di novembre, cioè domani, con qualche mese d'anticipo rispetto alla fine della legislatura. Domani è il grande giorno, anche lì tanta attesa, una situazione economica che fa paura, una situazione politica di stanchezza, insomma anche i sondaggi prevedono un desiderio di cambiamento, una situazione non facile nemmeno per la Spagna. Per avere una fotografia di quello che sta accadendo in queste ore prima del voto, abbiamo invitato un amico dell'altra Europa, lui è il caporedattore esteri del paese. Diamo il benvenuto a Jorge Mari Rodriga. Ciao Jorge. Buongiorno Federico. Buongiorno a te, ben ritrovato, come stai? Grazie, bene. Giornate intense, immagino, di lavoro. Giornate intensissime di lavoro, ma sono molto interessanti queste giornate, veramente, quando uno si sente fiero di fare il giornalista. Tra l'altro Jorge, tu hai seguito più l'Italia o più la Spagna in questi giorni? È impossibile seguire soltanto uno dei due paesi. Diciamo che questi giorni ho seguito l'Italia, la Spagna, la Grecia e soprattutto la Germania, che è quella che comanda tutti gli altri tre. Quindi è un gioco delle tre carte più una, diciamo. Ecco. Okay. Jorge, cosa sta accadendo? Il voto che va al di là di un appuntamento importante. La Spagna comunque in questi mesi, ma anche in questi anni, ha rappresentato qualcosa di particolare. È stato prima un faro, prima un boom economico, poi una delusione, poi il movimento dell'Indignados che da lì è nato, quindi una sorta di rinascita, di protesta, ma una protesta che ha voluto anche essere costruttiva, non solo un andare contro. E domani le elezioni, è un punto d'arrivo o è un punto di partenza? Speriamo che sia un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Purtroppo tutto questo si saprà lunedì mattina, a prima ora, con la borsa e con lo spread. Sì, una delle cose che si deve capire bene è che domani gli spagnoli non voteranno, diciamo, col cuore ideologico, ma voteranno con la tasca. Questo spiega benissimo perché domani possiamo vedere non soltanto una vittoria storica del centrodestra, ma una sconfitta totale del Partito Socialista. Ma si sono già rassegnati, nel senso che già in queste interviste preelettorali comunque c'è convinzione di questa sconfitta? Sì, certamente. Il Partito Popolare, quello di centrodestra, ha parlato soltanto di lavoro, di lavoro, di lavoro. Non dobbiamo perdere di vista che in Spagna la tassa di disoccupazione arriva al 20%, che la disoccupazione dei giovani è al di là del 45%, cioè più, per esempio, dell'Egitto, e che il peggio di tutto è che non si vede un'uscita. I votanti, quello che esprimeranno domani sicuramente, non è soltanto un desiderio di cambiamento, ma anche una punizione a questo governo che si è rivelato assolutamente incapace di gestire la crisi economica. Ma l'accusa qual è? Nel senso, è il crollo di un'ideologia o è il crollo di una figura, quella di Zapatero? Non, appunto, come dicevo prima, non è tanto di ideologia. Ci sarà tanta gente di centro-sinistra che andrà a votare al centro-destra. È più tutto puntato su Zapatero e il suo team, la sua squadra, che i quattro primi anni certamente ha fatto un bel lavoro quando le cose andavano bene, ha avuto tantissime iniziative di corte sociale, tante leggi, diciamo, rivoluzionarie, nel senso di aiuti, di riconoscimento dei diritti, ma quando le cose sono tornate male, quello che ha fatto il governo è stato assolutamente nulla. La gente vedeva come le sue condizioni di vita peggioravano, come i suoi familiari andavano senza lavoro, e invece il discorso ufficiale era quello di qui non succede niente, è colpa di fuori. Ancora ieri Zapatero diceva che quello che doveva agire contro questa situazione era la Banca Centrale Europea, che forse ha ragione, ma in Spagna, diciamo, i cittadini sanno che anche loro devono fare qualcosa. Sentire al tuo capo di governo dire che non è colpa sua in assoluto è un po' scoraggiante. Jorge, leggevo che Zapatero ha annunciato che si ritirerà a vita privata, lascerà la politica in toto. Pensi sì. che sia vero? Sì, questa è una regola non scritta iniziata da Aznar, perché secondo la legge spagnola, come siamo una monarchia parlamentare, una persona può candidarsi presidente di governo per tutta la vita, mentre sia eletto non c'è problema. Ma Aznar ha iniziato, diciamo, una tradizione che è quella di avere soltanto due periodi di governo e poi andarsene. E Zapatero va a fare lo stesso. E sicuramente dopo Aznar e Zapatero sarà molto difficile che un altro presidente si candidi più di due volte. Ho capito. Jorge, ma ed è il movimento dell'Indignados che tanto ha segnato comunque la politica in questi mesi in Europa, in queste ore come si sta comportando? Sono ancora in piazza i ragazzi? Hanno orientato il voto? Ci sono altre proteste in programma? Io direi che il movimento degli Indignados si è sgonfiato un po'. All'inizio era una cosa, adesso è diventato un'altra. All'inizio c'era lì gente di tutti i partiti politici, più di sinistra che di destra certamente, ma c'erano delle organizzazioni sociali, c'era la Chiesa. E col passare del tempo è diventato una cosa abbastanza più minoritaria e più alla sinistra. Oggi sono stati convocati diverse cortei che tra l'altro non sono legali, perché oggi teoricamente non si possono svolgere dei cortei, ma ci saranno soltanto centinaia di persone e non migliaia di persone come c'erano prima. Finalmente la gente ha capito, soprattutto che certamente c'è bisogno di un cambiamento, c'è bisogno di un'altra maniera di fare politica, ma qui c'è un'espressione molto abituale, che è quella di il voto utile, no? Cioè facciamo delle grandi idee, ma stiamo prima a vedere che cosa c'è domani e come col mio voto io posso cambiare le cose. Ok, c'è attesa, c'è voglia di cambiamento. Ci puoi tratteggiare un identikit sintetico dei due candidati, in modo che nelle prossime ore, quando sentiremo pronunciare questi due nomi, sapremo anche dargli un voto, comunque dargli dei caratteri? Sì, il Mariano Rajoy, che è il favorito, è stato vicepresidente con Aznar. È un uomo della regione della Galizia, che sono famosi per non contestare mai una domanda, e questo sembra un topico ma è una realtà. Nel caso di Rajoy, per esempio, Rajoy mai risponde una domanda ai giornalisti, che a me sembra un fatto un po' strano, no? È abbastanza, ma lui è un uomo molto tranquillo. Questo è buono nei momenti, diciamo, quando tutto è un po' sconvolto. Alfredo Pérez Rubalcaba è uno storico del Partito Socialista. Lui non è stato soltanto ministro e vicepresidente con Zapatero, ma pure è stato ministro con Felipe González. È un uomo che conosce benissimo la politica, conosce benissimo tantissimi leader dell'Europa, e lui è il migliore candidato per evitare una sconfitta totale del Partito Socialista. Diciamo che lui è l'uomo che si va a sacrificare per il partito, nel senso che il suo successore, che può darsi che sia una donna, devo dire, almeno abbia qualcosa con la quale lavorare. È uscita ora un'ANSA che appunto parla degli Indignados, stanno tornando a Puerta del Sol, esatto, per questa vigilia di riflessione, come anche tu ci avevi annunciato, e il movimento ha invitato gli elettori domani a votare scheda bianca o scheda nulla, quindi non è quel voto utile di cui dicevamo, ma claro, è una scelta anche questa. Questo sarà molto interessante da vedere, quante botte in bianco ci sono, perché c'è un movimento, una parte degli Indignados che dice, si è inventato un slogan che si chiama Reset, come i computer, no? Okay. Che dice che questo sistema si deve reseteare da capo. E ripartire. Jorge, grazie davvero per averci così fatto un'analisi lucida e sintetica della situazione spagnola. Ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa, e buon lavoro, perché saranno ore intense. Ciao, grazie. Grazie Federico, grazie, un piacere. Ciao. Europost-it. Fiera delle invenzioni a Bruxelles. Inventori pazzi e smanettoni visionari, questa fiera è per voi. A Bruxelles si terrà l'Innova Fair, il salone delle invenzioni pazze. Ma non è solo un circo di marchingegni sgangherati e di dubbia funzionalità. Gli aspiranti Archimede Pitagorico avranno l'opportunità di sottoporre le loro invenzioni ad un pool di esperti cervelloni e farsi dare qualche dritta per sfondare. Ci saranno conferenze, esposizioni tematiche, l'area per piccoli inventori e soprattutto l'Eureka Contest, la gara per la migliore invenzione della manifestazione. Per saperne di più sul programma e sulle invenzioni in gara, andate sul sito brussels-innova.com. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre L'Altra Europa. Ci trovate su Facebook, facebook.com/L'Altra Europa, oppure su Twitter, Federico Taddia, dove segnaliamo minuto per minuto tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. L'Europa è fatta anche di lingue e in occasione del mese europeo delle lingue vi vogliamo segnalare un'iniziativa che ci è piaciuta particolarmente, che si tiene a Firenze, è stata promossa dall'associazione AEG, www.aeg.org, il link per tutte le informazioni. Un'iniziativa che ha preso il nome di Aperitandem. Il tandem di fatto è una cosa a due, in particolare una chiacchierata in due lingue diverse, diventa l'occasione per potersi confrontare, per poter sperimentare una lingua diversa dalle altre. L'aperitivo è quello lì, è un happy hour nel segno della comunicazione e della conversazione. Un'iniziativa che è piaciuta molto, tanti studenti hanno partecipato e quindi volevamo capire un po' il sapore, il clima di questo Aperitandem, e per farlo abbiamo invitato una studentessa Erasmus che si trova a Firenze, viene dal Lussemburgo, conosce tutte le lingue del mondo, praticamente poliglotta tutto tondo. Diamo il benvenuto a Edmé Dopfeld. Ciao Edmé. Ciao, buongiorno. Quando abbiamo letto la tua presentazione c'è stato veramente un'invidia generale qui in redazione. Tu parli italiano, tedesco, francese, spagnolo, stai studiando portoghese. Spagnolo no, no? Okay. Non tanto. Non tanto, vabbè, l'abbiamo messo così che faceva colore. E tu vieni da Lussemburgo, cosa studi? Io studio italianistica e media comunicazione, però non a Lussemburgo, lo studio in Germania, lo studio a Treviri, che è abbastanza vicino a Lussemburgo però. Mm-hmm, ok, e sei a Firenze per l'Erasmus o l'hai già finito l'Erasmus e sei rimasta a studiare nella città toscana? Sì, è quello. Sono stata in Erasmus l'anno scorso per un anno, sì. E poi mi sono fermata a Firenze perché ora inizierò a scrivere la tesi. E ho scelto di farlo in Italia anche perché mi laureo in letteratura italiana, quindi per me è una buona possibilità, anche perché continuare a essere in Italia mi fa veramente piacere, e anche perché per la letteratura secondo me è più facile essere proprio qui, dove ci sono tutti i libri, dove le biblioteche hanno un po' quello più di quello che... Mm-hmm. Bisogno, certo, quindi... E masticare lingue diverse dalle tue, comunque studiare le lingue fa parte, come ci hai detto, insomma, della tua, del tuo DNA di fatto, e quindi non potevi non partecipare a questi Aperitandem. Ce li puoi raccontare, ci puoi dare un po' appunto il clima che si vive in queste occasioni di festa, ma anche di approfondimento, occasioni per imparare una lingua? Sì, diciamo, io l'ho conosciuto proprio la prima serata che sono arrivata a Firenze, perché c'è la mia coinquilina tedesca nuova che mi ha portata lì, e è proprio interessante perché non si ha bisogno di avere una ragione per parlare con qualcuno, diciamo, si va proprio per parlare, quindi non si ha bisogno di inventarsi delle cose a chiedere, diciamo, è più facile perché ognuno viene proprio per quello, quindi non è così difficile andare da qualcun altro e di iniziare a parlare perché tutti lo cercano proprio, quindi l'ambiente è molto più aperto e diciamo c'è con quest'idea di metterci semplicemente tavoli e mettere per ogni tavolo una lingua diversa, per esempio, facilita molto di andarci a parlare senza aver paura, insomma, perché ci si sente proprio già insomma, come già si direbbe, invitato. E certo, insomma, il clima informale credo che sia un'altra, sì, il clima ideale, no? Per potersi, per, anche per disinibirsi, perché comunque magari c'è una certa timidezza a buttarsi in una lingua diversa, sì, dalla propria, questo clima aiuta. Poi un po' di paura anche, perché tanti, cioè, quelli che vengono per parlare italiano spesso sono arrivati poco tempo fa in Italia, quindi c'è un po' di paura di iniziare a buttarsi, diciamo. E poi anche molti altri che vengono, cioè italiani che vengono per parlare diverse altre lingue, quindi c'è un clima di scambio veramente molto bello, perché che non si trova magari d'altra, perché non si trova tanto in un bar, perché lì è più difficile, c'è la musica eccetera, quindi qui è proprio fatto per quello, per parlare. Dal 15 novembre, appunto, la data di inizio, fino al 6 dicembre, un mese intero, quattro lingue diverse, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, c'è anche l'integrazione di un'ora di lezione, insomma un progetto ampio e pensato proprio per i più giovani. www.ig.org per tutte le informazioni, il link lo trovate sul nostro, sulle nostre pagine in Facebook. E prima di salutarci, Edme, noi ci teniamo ogni volta che possiamo a promuovere l'esperienza dell'Erasmus. Per te l'Erasmus cos'è stato? In una frase, qual è il tuo slogan? Qual è il cuore di questa esperienza che, con la quale vorresti contagiare tutti gli altri studenti? Io direi che è stato un anno soprattutto molto intenso, con tantissime nuove conoscenze, non solo italiane, anche europee e extraeuropee. Quindi ho conosciuto veramente molte culture, molti diversi anche di parlare italiano, di parlare altre lingue, quindi è stata un'esperienza anche a condividere con tanti studenti, con tanta gente che ha una cultura diversa, che mi ha anche insegnata molte cose, quindi è stato anche un anno, diciamo, in cui si può fare un po' di tutto, in cui si studia, però dove si fa anche molte altre cose, si scopre una nuova città, si scopre una nuova cultura, altro cibo, altra musica, eccetera. Quindi è quello che mi è piaciuto veramente molto. Insomma, è un anno in cui ci si mette davvero in gioco. Grazie davvero, Edme, in bocca al lupo per la tua carriera universitaria. Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Europost-it. Ballerini e coreografi europei, questa borsa di studio è per voi. Se la danza è la tua vita, puoi avere l'opportunità di effettuare uno stage del periodo di 5 settimane a Vienna durante il Festival Impulse Dance, a cavallo tra giugno e luglio 2012. La borsa di studio ti permetterà di perfezionare la tecnica e la teoria della danza e della coreografia grazie alla presenza dei migliori artisti riuniti dall'associazione internazionale Jardin d'Europe. Il programma offre a circa 65 giovani ballerini e coreografi tra i 18 e i 30 anni la possibilità di partecipare ad un intenso programma multinazionale di formazione e di assistere gratuitamente alle performance più esclusive. C'è tempo fino al 15 dicembre. Per tutte le informazioni, jardindeurope.eu. The EU has agreed tougher rules on the disposal of nuclear waste. The new pan-European plan will mean radioactive rubbish from the bloc's near 150 reactors will, from 2015, have to be buried in secure bunkers. Transport of the toxic material to other countries will still be allowed, but receiving nations will have to prove they have deep underground repositories. Come ogni settimana, insieme al network Euronet, viene scelto un argomento comune in modo che ogni radio, ogni nazione possa portare il proprio contributo. Il tema scelto questa settimana è quello dei rifiuti nucleari, una questione controversa che appunto non può essere certo risolta all'interno della singola nazione, ma ha proprio bisogno di una pianificazione che vada al di là dei confini. Si parla quindi di scorie nucleari, si parla quindi di trasporti di queste scorie, ci sono delle nuove regole introdotte dalla Commissione europea. Il tema, come potete immaginare, è delicatissimo. Per avere un quadro della situazione, per capire cosa sta accadendo, ma soprattutto cosa accadrà, abbiamo invitato il dottor Francesco Troiani, un dirigente di ricerca di Enea, fa consulenza per la Commissione europea, quindi sicuramente al polso della situazione. Buongiorno Troiani. Buongiorno. buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Ogni volta che si parla di nucleare si ha paura, quando si parla poi di scorie è il buio. Però ci sono regole nuove, perché questa paura credo che sia una paura oggettiva, nel senso che ci sono tanti punti di criticità. Come si sta muovendo la Commissione europea? Cosa sta accadendo in questi giorni? Ma diciamo che il percorso della Commissione europea e soprattutto del Parlamento europeo nasce da lontano. Già negli anni 2004-2005 aveva lanciato il cosiddetto pacchetto di sicurezza, che si sta traducendo in una serie di direttive, quella sulla sicurezza degli impianti, quella sull'esportazione degli anni passati e quest'anno quella sulla gestione sicura dei rifiuti radioattivi del combustibile irraggiato. Sono direttive molto importanti, anche e soprattutto per noi italiani, che più volte abbiamo espresso la sfiducia verso la regolamentazione nazionale e quindi abbiamo richiesto una legge comunitaria per gestire queste cose. Ma le scorie, per esempio appunto le scorie italiane, che fine fanno? Nel senso, chi decide dove metterle, come vengono guidate? Ah beh, in Italia esiste un sistema di gestione. Ed è simile, scusa, ad ogni altra nazione? Nel senso, c'è una c'è già un piano europeo o ogni singola nazione è autonoma? No, ogni singola nazione è autonoma. Fa il suo programma, lo applica e fondamentalmente l'obiettivo è quello di mantenere isolati i rifiuti radioattivi e salvaguardare la popolazione e l'ambiente. La direttiva queste direttive sono state create per armonizzare un po' i comportamenti all'interno dell'Unione e per dare regole certe anche laddove i rifiuti o i materiali in generale possono essere esportati all'interno della Commissione da un paese all'altro. Una cosa molto importante, per esempio, che fa è che stabilisce un comportamento unico per tutti e impedisce che i rifiuti vengano portati in paesi stranieri, magari sottosviluppati, magari con una normativa tecnica o un'organizzazione un pochino meno efficace, in modo tale da salvaguardare anche quei paesi. Lo si potrà ancora fare, ma lo si potrà fare all'interno di accordi bilaterali che la Commissione europea dovrà validare, e li validerà solamente se le regole applicate in quel paese terzo sono le stesse applicate in Europa. Quindi le illusioni di poterli esportare in paesi che l'accetterebbero dietro pagamento sono venute meno ormai. E Troiani, leggevo che la Commissione europea suggerisce di interrare i rifiuti in caverne di granito a circa 700 metri di profondità. È corretto? Questo è uno dei metodi di smaltimento, soprattutto per i rifiuti a più alta attività e per i combustibili irraggiati. Sono quei rifiuti che hanno una vita molto lunga, parliamo di centinaia di migliaia di anni, quindi sono formazioni geologiche che devono essere studiate e si deve dimostrare la loro capacità di poter contenere la radioattività per il tempo necessario, e tipicamente sono formazioni granitiche oppure argillose o depositi di sale. Sono diverse le formazioni scelte in Europa, per esempio quella svedese che sulla quale stanno lavorando è un granito. I francesi hanno scelto uno strato di argilla che peraltro sta nella regione dello Champagne a 300 metri di profondità. I tedeschi hanno scelto una miniera di sale, così come i giapponesi e gli americani. L'importante è che questa formazione garantisca, abbia dimostrato di essere stabile nei millenni passati e garantisca di mantenersi tale per il tempo necessario, per il tempo necessario futuro di cui si parla, che so che è almeno di qualche centinaia di migliaia di anni. Ecco, lei lo champagne prodotto con l'uva raccolta sopra a quel sito lo berrebbe? Lo berrei, perché il sito di smaltimento è un insieme di strutture naturali e ingegneristiche che garantiscono che la radioattività rimanga confinata all'interno di questo, diciamo, della formazione e non fuoriesca all'esterno. Peraltro ci sarà un sistema di sorveglianza per verificare che questo accada. Perfetto, ok, questo già tranquillizza anche noi non addetti ai lavori. Ma non succederà a breve, il programma è di almeno 10-20 anni. Ecco. Okay. Grazie Troiano, grazie davvero per averci dato un breve quadro di quella che è la situazione di complicata, e credo che il vostro sia davvero un lavoro importante e impegnativo. Buon lavoro a lei e a tutto il suo team. Grazie. lo sapete, ci piace anche andare in giro per l'Europa, vedere quelli che sono i musei, le mostre, gli eventi appunto più ricercati, gli eventi dei musei, le mostre del momento. Oggi andiamo a Berna, andiamo al Museo della Comunicazione di Berna, dove si trova una delle mostre più gettonate di questi mesi in Europa. Si intitola, attenzione, Comunicare nuoce, aperta fino al 15 luglio 2012, mostra che abbiamo conosciuto ieri leggendo il Corriere della Sera, perché è stata visitata e raccontata da Giusy Fasano, che è qua con noi. Ciao Giusy. Buongiorno a tutti, ciao. È vero che sei rientrata e hai spento il cellulare? Diciamo che ho avuto la tentazione di farlo ed è già un buon risultato alla fin fine, considerato il tipo di mostra. Allora, è già il Museo della Comunicazione di Berna, insomma, è un'istituzione, no, per quello che riguarda quella che è l'esposizione delle tecnologie legate ai mezzi di comunicazione, però hanno avuto questa idea di fare una sorta di mostra a provocazione? Sì, Ulrich Schenk, che è uno studioso di comunicazione, ha ideato questa mostra assieme ad altri colleghi all'università, alla facoltà di sociologia dell'Università di Berna, e questa mostra è davvero un po' particolare perché già si parte dal titolo, come dicevi tu, attenzione comunicare nuoce, ed è proprio una specie di percorso, anzi è un percorso attraverso il quale si dovrebbe arrivare alla consapevolezza di quanto si è nocivi e di quanto si è sofferenti della comunicazione. Si fa un test, è una cosa molto elaborata, però è davvero un'idea particolare. E all'interno della mostra c'è una cosa che loro hanno chiamato clinica della comunicazione, sì, che è l'impatto della mostra, e in questa clinica si ha proprio l'idea di quanto siano tanti e gravi i malati, perché si ha una sfilza di dati talmente abnormi rispetto a quello che una persona può immaginare, che uno si ferma un attimo a pensare e dice: però caspita, è così che va il mondo? Ci sono 325 milioni di siti al mondo in questo momento, mentre io e te parliamo, e in questa giornata, per esempio, se io e te volessimo, come tutti gli abitanti della Terra, partecipare al flusso della comunicazione, sì, in giro per il mondo, dovremmo leggere la bellezza di 12.000 libri. Ecco, ci sono dati di questo genere un po' impressionanti. Leggevo 200.000 sms al secondo nel mondo, quindi è... Esattamente, sì, ma ce ne sono tanti di dati, guarda, è una roba veramente che ti dà l'idea, appunto, di una clinica, come quando tu vai in un ospedale e vedi tanti malati. Ecco, lì vedi tante cose che sembrano veramente non normali, tutto qua. Quindi insomma, questa full immersion nel mondo della comunicazione, ma anche con qualche consiglio, comunque qualche visione, sì, futura, sì, o il danno è fatto? No, allora, allora si entra in questa clinica, come ti dicevo, dopodiché si passa in una zona dove si fa un test con tante domande che tendono a un po' a studiare che personalità hai come comunicazione, si intende, se sei una persona malata di comunicazione, quindi uno che controlla sempre il cellulare, che non vuole mai essere non raggiungibile, che controlla le mail 200 volte, che ha bisogno di un computer perché altrimenti non ce la fa, eccetera eccetera. Allora, a seconda del tuo grado di, diciamo così, di malattia di comunicazione, tu da lì in poi entri in quattro differenti porte. Nella verde vuol dire che se stai benissimo, si stanno come un pesce, nella gialla, arancio e rossa è una gradazione di gravità. Ecco, la rossa è la più grave, io naturalmente ero rossa. Però tu ovviamente avrei dato la colpa alla tua professione, che è sempre un alibi perfetto, giusto? Ovviamente, dopodiché capisco bene che non è vero. E partendo da questa porta e dalla tua situazione personale, a quel punto entri in una sala che è una cosa che loro hanno chiamato stazione dei consigli, e da lì fai, se ne hai voglia, un po' di interazione con dei computer che hanno dei programmi particolari che ti fanno capire, per esempio, ti faccio un esempio così è più chiaro, certo, il multitasking è una cosa a cui più o meno quelli che hanno tanta malattia di comunicazione sono abituati, cioè tu fai più cose contemporaneamente. Ecco, lì c'è un giochetto in uno di questi computer che ti fa fare dei giochettini piccoli, lenti, lentissimi, e ti dici: mamma mia, quanto sono lenti questi, ma questi sono facili, li faccio in un momento. Dopodiché li mettono in un passaggio successivo, li mettono tutti assieme, lentissimi come erano prima, ne mettono assieme soltanto due o tre, e tu capisci che non ce la fai, anche se erano lentissimi, ti annoiavi fino a un attimo prima, non ce la fai. È una cosa banale, banale, ma insomma ti fa riflettere, diciamo così. Grazie davvero a Giusy Fasano. Giusy, abbiamo pubblicato il link del tuo articolo per chi volesse leggerlo sulle nostre pagine in Facebook e anche il sito del Museo della Comunicazione di Berna, in italiano e in tedesco. Un'ottima occasione, come dice Giusy nel suo articolo. Dovrebbero andarci sicuramente anche le scuole. Ciao e grazie, buon sabato. E questo grazie anche a tutti voi, grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie a Margherita Ina che con me ha scritto la puntata insieme a Viola Frifa, Giorgio De Luca in assistenza, Paolo Corleoni alla parte tecnica. Ci trovate su Facebook, facebook.com/l'altra Europa. La puntata sarà scaricabile online da lunedì dal sito radio24.it. ancora grazie, ancora ciao da Federico Taddia.